Do il benvenuto ad Enza Negroni, regista di Italicus, La verità negata. Benvenuta Enza ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti. Allora, questo diciamo che è una docu-fiction particolare che indaga la strage sul treno Italicus del 1974, un gravissimo attentato degli anni di piombo rimasto ancora purtroppo senza colpevoli. La cosa particolare appunto è che la sceneggiatura è stata fatta in collaborazione con gli studenti del liceo Laura Bassi di Bologna. Quindi Enza, volevo chiedere come è avvenuto questo progetto e che tipo di lavoro hanno fatto gli studenti. Allora, questo Italicus, questo film Italicus, La verità negata, è, come hai anticipato, una docu-fiction realizzata dagli studenti del corso doc del liceo Laura Bassi con la mia regia. Fa parte di un progetto del Piano Nazionale di Educazione all'Immagine per le Scuole promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Cultura. Di conseguenza abbiamo lavorato in grande sinergia sia nella fase della progettazione fino alla, diciamo, al montaggio finale. Gli allievi del corso DOC, coordinati da Roberto Guglielmi, hanno scritto la sceneggiatura, realizzato le interviste e anche redatto un libro con la giornalista Antonella Beccaria di Bottega Finzioni, e ci hanno affiancato quindi gli attori Stefano Pesce, Miriam Pregliate, Cardillo, Maurizio, Lorenzo Saloni ed altri sono stati con noi insieme agli allievi del corso DOC in tutti i momenti della lavorazione del film. Un'altra cosa che diciamo rende appunto particolare questo film è che, come l'abbiamo definito anche all'inizio, è una docu-fiction, quindi parte di documentario, parte di fiction. Come attraversi il tema tra questi due appunto elementi, tra il documentario e la fiction? Allora, siamo partiti innanzitutto da queste lezioni di Antonella Beccaria scegliendo gli intervistati. Intervistati hanno fatto parte, diciamo, purtroppo di questo fatto, quindi c'è il fratello della vittima che ha salvato sul treno alcune persone, che si chiama Franco Sirotti, c'è Mauro Russo, che è stato una delle vittime, all'epoca era proprio un ragazzino e ha perso tutta la sua famiglia, è rimasto lui e la sorella. Quindi il magistrato Grassi, Vito Zincani, diciamo molte testimonianze delle proprie delle persone che hanno partecipato attivamente a tutto l'Italicus. Dopodiché Roberto Guglielmi ha instaurato con i ragazzi appunto la scrittura della sceneggiatura delle parti di fiction, e io mi sono dedicata alla ricerca degli attori, quindi ho scelto Stefano Pesce, Miriam Pregliati e anche tutti gli altri, in modo tale che parte di fiction poi si sia adeguata anche alla parte delle interviste, alla parte del repertorio, perché nel film ci sono anche il repertorio delle Teche Rai, che ci ha sostenuto per utilizzare immagini di repertorio, e anche un film della regione bellissimo realizzato da, tra l'altro, un mio docente del DAMS, Bernagozzi, e anche da Buganè. Questo film bellissimo che si intitola Italicus, che fu girato proprio nel 1974, prodotto dalla regione Emilia-Romagna. Non ci resta che sapere quando e dove sarà possibile vedere Italicus, La verità negata. Allora, per quello che riguarda Bologna, stiamo organizzando una seconda proiezione nella prima settimana di maggio. E quindi comunicheremo attraverso i social, attraverso la comunicazione, spero anche attraverso di voi, le nuove, diciamo, la nuova data di Bologna. Poi abbiamo il 14 aprile, per esempio, a Bobbio, in provincia di Piacenza, a Rimini il 27 aprile, a Sant'Arcangelo il 3 maggio, il 18 maggio a Ravenna e il 21 maggio a Faenza. Quindi ha delle proiezioni perché è stata inserita dentro e selezionata per la rassegna Doc in Tour, e di conseguenza circolerà fino alla fine di maggio e poi anche nelle arene estive. in modo tale che questa docufiction possa essere vista il più possibile. Certo, assolutamente. Nel frattempo io, Enza, la ringrazio per averci raccontato da più vicino appunto la docufiction Italicus, la verità negata, e ci vediamo al cinema. Vediamoci tutti insieme. Buona giornata.